America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Filadelfia, Mario Platero. We proudly cast 15 for the 45th president of the United States and the first one who will be called Madam President. È stata la giornata del roll call, è stata la giornata storica in cui il Partito Democratico per la prima volta ha nominato una donna per essere rappresentato nella corsa per la Casa Bianca del 2016. Il momento storico è avvenuto quando Hillary ha superato la soglia di 2.382 delegati, quelli necessari appunto per avere la nomination. E a quel punto, colpo di scena, sentiamo. I move that the convention suspend the procedural rules and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for president. Bernie Sanders a quel punto è intervenuto e ha bloccato il voto. Ha detto che avrebbe rinunciato ai suoi e che avrebbe chiesto all'assemblea generale di questi 50 stati rappresentati da migliaia di persone qui alla Wells Fargo Arena a Filadelfia di votare per acclamazione Hillary Clinton, cosa che è successa, un tripudio infernale e devo dire la dimostrazione più tangibile, più concreta dell'unità del partito. Sanders ha fatto, devo dire, una mossa davvero geniale perché, come ha detto ieri, ormai dal punto di vista del Partito Democratico l'importante è battere Trump, non è dare fiato alle divisioni all'interno del partito. Ecco, devo dire, mi ha colpito molto come il New York Times non abbia capito questa storia, perché continuava a dare fino a ieri pomeriggio tardi notizie di spaccatura all'interno del partito, delle minoranze che protestavano, di Hillary in gravi difficoltà. E invece, devo dire, davanti a quello che poi abbiamo visto in sala, si è dimostrato che forse a volte i media cercano di soffiare sul fuoco in modo che va magari un po' al di là del normale. Del resto ci sono stati naturalmente dei rigurgiti di protesta, ci sono stati dei boo, ci sono stati alcuni irriducibili del Partito Democratico che fa capo a Bernie Sanders che hanno continuato in qualche modo a farsi sentire. L'episodio più bizzarro è stato quando hanno occupato a un certo momento una parte del media center, questo dopo tra l'altro l'elezione che aveva confermato Hillary Clinton per la nomination. Ecco, a loro credo che la risposta che si debba dare è quella che ha dato per tutti l'altra sera Sarah Silverman, la comica Sarah Silverman. Sentiamola. Can I just say to the Bernie or bust people, you're being ridiculous. Ridicolo. Ecco, in effetti la sua definizione è stata, devo dire, molto calzante, perché è ridicolo continuare a parlare di divisioni interne quando a questo punto si deve cercare di pensare a novembre, di vincere a novembre. C'è stata anche la grande, solita, importante, bellissima dimostrazione di democrazia americana nella sua massima espressione, perché col roll call, come vi raccontavo durante la convention repubblicana, intervengono tutti i capi delegazione di ciascuno stato e ciascuno parla brevemente del suo stato e poi elenca i voti. Sentiamo. Florida! I proudly cast 72 votes for Senator Bernie Sanders and 163 votes for the first woman president. Ecco, gli stati sono dalla Carolina del Nord al North Dakota, alle Northern Marianas, alla California, naturalmente New York, tutti gli stati americani, tutti e 50 stati. È una vera e propria cerimonia, una vera e propria liturgia. Ve ne menziono un paio che mi hanno colpito. La dichiarazione delle Northern Marianas, perché le isole Marianne hanno partecipato per la prima volta alle primarie e sono un territorio degli Stati Uniti, non sono uno stato. E il capo delegazione ha detto: indossiamo fiori meravigliosi nelle nostre teste e siamo qui davanti a voi per la prima volta nella nostra storia a dirvi che abbiamo dato 2 voti a Sanders e 9 voti a Clinton. Un'altra dichiarazione di forte contenuto emotivo dall'Oklahoma. Ha parlato questa signora che ha detto: greetings, saluti, io sono nata nel 1929, soltanto 9 anni dopo l'introduzione del suffragio, del voto per le donne. Non avrei mai pensato che sarei vissuta fino a questo giorno. Sono onorata, abbiamo dato 22 voti a Sanders e 20 voti a Clinton. Hillary Clinton has the compassion and understanding to support grieving mothers. She has the courage to lead the fight for common sense gun legislation. Ecco, la giornata in generale è stata dedicata, devo dire, poi a Hillary Clinton, e lei è l'eroina che va celebrata, e hanno parlato delle madri. Hanno parlato le madri di ragazzi che sono stati uccisi dalla polizia, per esempio Gwen Carr, il figlio Eric Garner, morì soffocato nella presa irregolare di un poliziotto a New York, e poi Sabrina Fulton, che è la madre di Trayvon Martin, che è il giovane che fu ucciso in Florida da una guardia privata, era un sedicenne, pensate, solo perché camminava e aveva un fare sospetto. In tutto ci sono state 7 madri che hanno parlato. L'idea della compassione è l'idea di Hillary Clinton, l'idea di proteggere i deboli è l'idea di Hillary Clinton, ma c'è un problema, perché sono state già proteste contro Hillary, questa volta dal grande pubblico. Secondo me lì c'è stato un piccolo scivolone. È vero che ha parlato anche l'ex capo della polizia di Washington, ma la protesta da parte di una delle associazioni nazionali della polizia è stata molto chiara. Perché non hanno parlato le vedove dei poliziotti uccisi? Ecco, questo probabilmente dà munizioni a Donald Trump. Già me lo immagino che attaccherà Hillary Clinton per dire che lei protegge i criminali e non protegge la forza della polizia. Dunque, l'obiettivo centrale a questo punto diventa un altro, diventa quello di celebrare Hillary, una vita di lotta per le famiglie e per i bambini, enfatizzare l'intreccio tra la storia personale e politica di questa donna che ha fatto storia, la sua passione per l'educazione, per le classi più povere, come vi dicevo, per l'emancipazione. Insomma, l'obiettivo adesso diventa cambiare l'immagine che l'opinione pubblica ha di Hillary Clinton, una donna fredda, una donna antipatica, una donna pasticciona, una donna che, peggio, senza pensarci due volte, viola la legge. Chi l'ha fatto? Beh, non poteva che farlo. Sentiamo. For this time, Hillary is uniquely qualified to seize the opportunities and reduce the risk we face. And she is still the best darn change maker I have ever known. L'avete riconosciuto? Bill Clinton, il marito, è stato lui l'oratore chiave della serata. Avete già sentito dal tono della voce come di fatto ci ha detto di essere tornato in gioco, tornato nell'arena politica che ama di più, quella delle convention, del processo elettorale. Ma soprattutto Bill parla di sua moglie, di Hillary, cioè è una game changer, una persona che cambia le cose, che cambia in continuazione, che deve sempre cambiare qualche cosa e quindi guarda in avanti, non guarda indietro. Questo è bene per i nostri figli, per i nostri nipoti. La temono i repubblicani perché è un game changer, e dunque vi danno questa immagine non reale. La vera Hillary Clinton è quella che conosco io, e ha raccontato tra l'altro tutta la storia del loro incontro, molto affettuosa, molto interessante, molto emozionante. Una Hillary molto reale, molto vera, una Hillary che si occupa dei problemi dei disadattati, dei problemi dei derelitti, lungo la sua carriera politica parallela a quella del marito. E dunque la temono e ne danno invece un'immagine che non è l'immagine reale, ma è l'immagine di un cartoon, di un personaggio da fumetto, un'immagine bidimensionale che è molto più facile da attaccare. Ma la vera Hillary, dice, la vera Hillary è quella che voi avete nominato stasera come candidato per la Casa Bianca. Per capire quanto efficace sia stato questo discorso, beh, dovremmo aspettare i sondaggi. La battaglia ovviamente è centrale, perché gli americani a casa, gli indipendenti che decideranno queste elezioni, dovranno anche decidere se sono pronti ad avere per la prima volta nella storia non soltanto una donna alla Casa Bianca, ma anche un ex presidente alla Casa Bianca, la prima coppia presidenziale alla Casa Bianca. Certo, il presidente non sarà Bill, però Hillary ha già detto che il marito sarà lo zar per lo sviluppo economico, e conoscendolo, devo dire, non posso immaginare che il suo ruolo di consigliere della moglie non avrà un ruolo determinante. More than 200 years after Deborah Sampson fought, and nearly 100 years after women got the vote, you people have made history. Ecco, come vi dicevo, il lavoro preparatorio di ieri è stato proprio per far capire agli americani che Hillary è meglio di Trump, è più amata, è più amabile di Trump, ed è una donna molto meglio di quello che sembra apparire attraverso le televisioni. Hanno parlato decine e decine di oratori, per esempio il senatore Schumer di New York, che sarà il prossimo capo della maggioranza al Senato. Ma è inutile parlare dei politici, perché la voce che vi ho fatto ascoltare è quella di Meryl Streep. È intervenuta questa grandissima attrice per presentare un filmato dedicato proprio a Hillary Clinton. C'è stata anche Alicia Keys. Everywhere I'm turning, nothing seems complete. Ecco, è stata quella di Alicia Keys, l'avete sentita, l'ultima delle performance. Non è cosa da poco, secondo me, avere attori, cantanti a queste convention, perché sono personaggi generalmente amati da tutti, sono supra partes, e la loro parola sul carattere del candidato è importante. E devo dire che dai repubblicani di personaggi, diciamo, supra partes non ne abbiamo visti. È stata una convention, facendo il confronto fino ad oggi, molto più povera di quella ricca di contenuto, di personaggi che abbiamo visto qui a Filadelfia. Oggi parleranno Bloomberg, parlerà il vicepresidente, ci sarà la virata verso il centro, parlerà soprattutto Barack Obama. L'unità del partito, direi con buona pace dei sanderisti, a questo punto è compiuta. A Filadelfia, la convention democratica è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!